fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Buonasera, buonasera, se hola, sentite hola delle risate è perché la nostra radio è popolata da bellissime ragazze, ovvio. E tante anche, 3, 6, 8, lei dice ovvio chiaramente perché le ha controllate, lei è una controllo qualità, lei è controllo qualità bellezza delle ragazze, le ha controllate tutte, cosa mi dici? Come le giudichi? Allora, un punteggio da 1 a 10 direi 10. 10. Sento della generosità e dello zucchero volare per tutta la dolcezza che sta... Aspetta però, c'è una domanda fondamentale da fare. Cioè, io la devo fare. Prego chi? Io la devo fare. Il 10 conta anche la tua, cioè il tuo voto, o tu sei esclusa e il 10 è per loro? Guarda, io sono un 30, quindi... Vedi. Vedi che io... Lo sapevo, l'ero proprio servita lì perché sapevo che avrei trovato una persona umile, avrei trovato una persona di basso livello che non si erge sopra gli altri. Allora, prenditi le tue responsabilità, di come ti chiami. Ciao a tutti, io sono Irene, codice fiscale BRG, Irene86, 6268i. Bene, bene, bene, molto bene, anche perché... Per quello che dicevamo fuori onda, cioè per il bellissimo lavoro che Irene fa, potrebbe venire comodo sapere il suo codice fiscale, perché nel momento in cui le arriva un bonifico lo può girare agli altri. Molto bene, molto bene. Perché tu, Irene, dillo al mondo intero, qual è il tuo lavoro? La mantenuta. Oh, bello, bello, la mantenuta di lusso. Brava, brava, così si fa. Bisogna godersi la vita. Guarda che è un talento riuscire a farsi mantenere, eh? Cioè, perché bisogna trovare la persona giusta con le condizioni giuste e non farsi assumere da nessuno, che è difficilissimo, non farsi assumere da nessuno. Quindi comunque è un talento, bravissima. Dillo che anche noi siamo spesate dal tuo futuro marito. Ma no, è chi è? È uno sceicco arabo, cioè... No, non serve. Non serve. No, mantenuta dai genitori. Ah, dai genitori. Sono due generazioni di mantenuti. Bellissimo. Bellissimo. Infatti dovete sapere che la nostra Irene, nonostante abbia passato la maggiore età, tutte le domeniche mattina alle 11.30 va dai genitori e va ancora a prendere la mancetta settimanale. Esatto. E poi anche dalla nonna, che è fondamentale. E poi si fa tutta la settimana pane e acqua per non spendere troppo e arrivare al sabato ancora con i soldi. C'è ancora il salvadanaio, l'Irene, a casa, il maialino. La forma di maialino, vedi che è come se ci conoscessimo da una vita. Allora, non so se vuoi dire qual è il suo nome, quello del futuro marito, perché poi potrebbe essere lunga la lista delle persone che lo contattano, ma se ti va di dircelo. Almeno il soprannome, dai. È un nome generale. Ok, dicelo. Quindi Federico, in intimità Chicco. Oh, Chicco. Che a metà tra bambolotto e orsacchiotto come soprannome e anche molto di fantasia, perché da Federico a Chicco diciamo che ci vuole comunque ci vuole anni e anni di studio che sono stati precedenti a quelli di mantenimento, cioè prima, da quanto vi conoscete Irene? 13 anni. Ecco, vedi, 13 anni. Diciamo che per i primi 7-8 ha pensato a un soprannome da dargli. Poi quando la sua mente ha creato il soprannome Chicco, a lui è piaciuto così tanto che ha detto: guarda, non lavorare, ci penso io a mantenerti per ringraziarti della tua genialità. Dillo che è andata così. Giusto, sì. Vedi, bellissimo. Bravo, bravo. Torna tutto, sì. Da dove vieni, Irene? Sarnico, che raccontaci un po' dov'è, dove sta, come sta. Allora, un magnifico paese sul lago di Seo, provincia di Bergamo. Stella splendente. Cos'è? C'è l'inno ufficiale di Sarnico? Lo so, dai. Amiche disagiate. No, dai. Vai con l'inno ufficiale di Sarnico. Vai con l'inno ufficiale. Ragazzi, guardate che c'è. Va bene, quello che sai. Tanto anche l'inno italiano, la seconda strofa non la sa nessuno. Stella splendente del Sevino. Stop, finisce qua. E basta. Ma bellissimo, guarda che. Brava Claudia! La studiamo per il matrimonio. Sì, forte. Beh, non è la canzone chiusura del matrimonio questa, come è giusto che sia. No, dicevo, quale radio in Italia, addirittura nel mondo, si può vantare di aver cantato in diretta l'inno di Sarnico? Cioè, penso nessuna. Nemmeno le radio lombarde. Bene, nemmeno le radio lombarde sono arrivate a tanto. Neanche Radio Bergamo. E allora, Irene, io direi di approfittare della loro presenza anche per dare a loro il giusto risalto. Chi c'è qui con te? Ce la vuoi presentare? Allora, se ti va, visto che le hai dato 10, direi che. Però comunque specialissime. Allora, poi con me ho Claudia, che è quella che ha cantato l'inno di Sarnico. Irene. Scusate, Claudia, futuro sindaco di Sarnico. Ha già il tappeto rosso. Mazzoli! Levante! Proprio la strada spianata verso la fascia tricolore. Andrea. Ilaria. Marica. Jasmine. Ed infine Celeste. Bene. Il bello è che nessuno saprà mai chi sono, nessuno le riconoscerà mai per strada. Ragazze, però è stato emozionante. Belle ragazze, vi do poi i numeri di telefono, ricordatevi. No, allora quelli dalli a me, per favore. Diamo un attimino le gerarchie. Quelli li dai a me, poi se io non ci riesco, li diamo agli altri. Facciamo così. Allora, Irene, siamo quasi in conclusione. Vuoi dire qualcosa? Vuoi salutare qualcuno? Allora, no, io voglio solo dire semplicemente grazie a tutti i miei amici speciali per questa fantastica bella serata. Bella questa, vuoi dire qualcosa? Bene. Stavo pensando al vuoi dire qualcosa? No? Allora voglio salutare. Però ci sta. Come dai. Possiamo fare un inno. Come quelli che rispondono sì, no. Allora, siccome inno. Ma tu praticamente è il nuovo Goffredo Mameli, la Claudia. Ah, ok, questo è sicuro. Viva la sposa! E viva la sposa! Viva la sposa! E viva la sposa! Oh, bello! Viva la sposa! E viva la sposa! Viva la sposa! E viva la sposa! Il bello è che loro da fuori vi supportano con le mani in alto e non sanno assolutamente cosa state cantando, però... Grande vale! Grande! Guardala. Una di noi. È bello come ci sia questo rapporto proprio quasi chimico del essere coinvolta. Siamo abituate senza, perché è sorda. Senza sentire. Ah, ok. Mi piace. Non importa il vetro. No, ma certo. No, ma sai cos'è? Sai che cos'è secondo me? Lei adesso sta nella sua mente, sta ascoltando la musica di ieri sera all'aperitivo. Cioè è in ritardo di 24 ore sulla vita. E quindi lei è ancora all'aperitivo di ieri. Bene. Stai cazzando. Aspetta, non so cosa stia capendo, ma noi ci fidiamo. Appunto. Tra l'altro volevo sottolineare come la creatività di questo inno sia pari al soprannome di Chicco. Diciamo che sono lì. Come? Non siamo mica per niente. Esatto. Siamo creativi. Ci si trova. Devo correggere, devi dire Chicco. Ah, scusa, Chicco. Ma perché? Perché tenerino. C'è questo... Non posso svelare tutto. Niente. Allora lo lasceremo così, sospeso nell'aria. Allora, grazie mille, ragazze. Buona fine serata, buon divertimento. E tanti auguri alla nostra Irene.